Wow. Wow. Wow. C'est Mallorca, ça. Oui, c'est bello. Amigo. How much does this cost here? 25. Okay, so I pay 40. So it's a good price. No. No. I've got this one, so. No, this one got that one. This one, and one more. Super. Beautiful, eh? No, that's enough. Oh, thank you. Allora, amico, prendi qua, bello. Guarda, perfect. Nuovo? Finora? Buono, buono. Va bene, falla marito. Falla. Va bene capo, vuoi? Uno. Cotone indiano. Guarda. Curva mano. Curva mano. Good price, this light one, beautiful. Hello? Bello! Uno va bene! Portone indiano amico! Coppano! Bene! Che lui, bellissimo! Nuovo! Miram! Madame! Ciao! Ciao! Hai! Okay.